Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Paluzza, provincia di Udine. Un piccolo comune a 605 metri nella Val Bœuf, di cui costituisce il principale centro, nella regione montana della Carnia. Il paese si trova in una conca circondata dai monti Paularo, Cimon di Crasolina e Creta di Timau a nord, Tersadia e Arvenis a sud. Le sue frazioni sono Naunina, Inglaro, Rivo, Cleulis, Casteons e Timau. Quest'ultima, un'isola alloglotta germanica, dove si parla un particolare dialetto tedesco. Ponte Bernardo, frazione del comune di Pietra Porzio. Si adagia di certo e non si estende sulle sponde del fiume Stura, in provincia di Cuneo. Poco più di un centinaio di anime, due feste patronali dedicate alla Madonna del Carmine e a Santo Stefano, una distesa di abeti e larici, echi di Ghironda e sapori occitani. Due piccoli paesi, due pontini sparsi nello stivale con qualche elemento in comune, la neve, il freddo, i boschi. Due nomi che di primo acchito non dicono nulla. Ed è qui, eppure, che parte la storia di oggi. E cioè la storia di un percorso duro, lungo, il cui vero protagonista è la fatica. È la montagna a fare da sfondo a tutta la faccenda. La montagna con la sua magia, il suo fascino, la sua durezza. La montagna con i suoi segreti e le sue meraviglie. Io domando tante volte alla gente, no? Avete mai assistito un'alba sulle montagne? Salire una montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall'uomo vi può dare. Questo spettacolo della natura. A un certo momento, prima che il sole esca dall'orizzonte, c'è un fremito. Non è l'aria che si è mossa, è un qualche cosa che fa fremere l'erba, che fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno, l'aria stessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione che il sole ci porta ogni mattina. È la voce saggia e pacata di Mario Rigoni Stern, scrittore e militare italiano legato alla montagna, a introdurci nel mondo di oggi. Un mondo in cui la natura e l'animo si fondono, protetti dai rumori che arrivano ovattati, per poi adagiarsi sulla neve. Ed è in mezzo alla neve, seguendo uno dei mille percorsi tracciati dagli uomini, che Destini Incrociati arriva a Paluzza per incontrare il primo protagonista. Anzi, la prima protagonista, per la precisione. È il 31 gennaio del 1963 e una piccola creatura arriva per riscaldare i cuori di una famiglia. Il suo nome è Manuela Di Centa. Manuela Di Centa. L'infanzia di Manuela è naturalmente condizionata dal paesaggio che la circonda, il freddo, il vento che sibila, la natura che regola i cicli. Il suo sguardo e il suo carattere assumono subito una fisionomia precisa. Dalla mamma Maria, che si fa chiamare ancora col cognome da nubile, eredita la forza e la semplicità, mentre da papà Gaetano l'amore e la passione per la montagna e per lo sport. Una vita intensa, quella del padre. Di notte è impegnato a impastare il pane per gli abitanti di Paluzza e di giorno sciatore e allenatore. A completare il cerchio due fratelli, Andrea il grande e Giorgio il piccolo. Ci vuole poco a capire quale sarà il futuro di Manuela. A 4 anni indossa già un paio di sci, rossi, costruiti e dipinti dal padre, con i quali comincia a pattinare attraverso i sentieri che circondano la sua casa. Insieme al fratello maggiore, poi, si cimenta in divertenti parodie delle Olimpiadi, organizzate dallo stesso Andrea ogni 2 anni, in occasione degli eventi estivi o invernali. Un'organizzazione degna del CIO, che permette ai due di scatenarsi in divertenti sfide, in cui naturalmente a trionfare è quasi sempre l'Italia. Tranne, particolare e curioso, nel salto del trampolino e nello sci di fondo, dove a vincere sempre la Finlandia. Ma è un dominio che non durerà a lungo. Intanto Manuela cresce alla velocità della luce. Corre, suda, seguendo le tracce che circondano Paluzza, immersa nella natura, circondata dai silenzi. E si scopre sempre più a suo agio con gli sci di fondo ai piedi. A 9 anni esordisce in una gara ufficiale e vince. Un buon inizio, non c'è che dire. La ragazza ha talento da vendere. È normale vederla qualche anno e qualche altra vittoria dopo entrare a far parte della rappresentativa nazionale. Lo sci di fondo femminile naviga in cattive acque. È un momento che fatica a ritrovare un'identità precisa e vive all'ombra degli uomini. Così nel 1978 la neanche quindicenne Manuela entra nel giro con la speranza di far bene e dare una mano alla squadra. Nel suo esordio c'è l'indice di tutta la storia che le si appiccicherà addosso più avanti. Manu è la più piccola e le compagne tendono a snobbarla, lasciandola un po' in disparte. Saranno i primi segnali di una particolare tendenza all'isolamento. In gara, durante il suo turno di staffetta, risponde per le rime a un'atleta russa grande il doppio che in una discesa le urla dietro per farsi strada. Manu ha carattere e non lo nasconde. La Norvegia e la città di Oslo sono orgogliosi di ospitare i campionati mondiali di sci di fondo e danno il benvenuto a tutte le nazioni partecipanti. Siamo nel 1982 e l'Italia si accorge di avere una piccola campionessa in casa. Ci sono i mondiali, come avete sentito, e la Dicenta fa parte della squadra, che come accade ultimamente arriva in punta di piedi. Manu inizia bene, arriva 17esima nella 10 km, frenata anche dalla rottura di un bastoncino. Ma il capolavoro lo realizza nella gara seguente, la chilometri 5, dove arriva ottava. A 19 anni, Manuela si trova solo 7 atlete davanti. Rinuncia alla 20 km per poter preparare bene gli assoluti italiani juniores, dove vince. Ormai è chiaro, siamo di fronte a una grande atleta. Se il destino funzionasse come una macchina, sarebbe logico aspettarsi per il prosieguo del racconto l'elenco delle sterminate vittorie di Manuela Dicenta. Ma non è così. Wednesday, February the 9th, 1984. And the Kosovo Stadium in Sarajevo is the venue for the opening ceremony of the Olympic Winter Games. The celebration coincides with the 400th anniversary of Yugoslavia. Manu arriva alle Olimpiadi di Sarajevo e tutti si aspettano la sua consacrazione. Ma questo non succede. Si piazza oltre il 20° posto in tutte e tre le gare a cui partecipa, mentre nel frattempo emergono i problemi che la accompagneranno durante tutta la carriera. Cresciuta in fretta e forgiata dalla volontà e dalla personalità trasmessagli da papà Gaetano e mamma Maria, la Dicenta assorbe tutto bruciando le tappe e trascinandosi dietro inevitabili lacune. Si sposa giovanissima, a 20 anni, e si trova ad affrontare una realtà per cui probabilmente non è ancora preparata. Il suo carattere e la sua consapevolezza tanto le sono utili durante l'agonismo quanto le creano problemi fuori dalle piste. Manu è un po' testarda e a volte strafottente, tutte doti che non l'aiutano di certo a farsi ben volere. È un personaggio scomodo, direbbe qualcuno. Più probabilmente è una ragazzina da seguire per evitarne la deriva. È invece proprio la deriva a prendere il sopravvento. Delusa dai risultati delle Olimpiadi, la Dicenta innesca insieme al marito una polemica dura con la federazione e il suo presidente, Arrigo Gattai, accusando di aver ricevuto pressioni per sottoporsi all'autoemotrasfusione, una pratica che, seppur legale, non incontra certo il favore della ragazza. È l'inizio di una serie di incomprensioni che portano a una vera e propria guerra con lo staff azzurro. Il risultato dei trattati di pace sarà durissimo. La Dicenta se ne va sbattendo la porta e limitando la sua attività nello sci di fondo alle sole gare nazionali. Si trasferisce a Varese, in tempo per assistere alla fine del suo matrimonio e all'aggravarsi di problemi di salute legati alla tiroide, malanno con cui dovrà fare i conti anche negli anni seguenti. Sembra l'inizio di un inevitabile declino, una di quelle tante storie che raccontano di persone dotate costrette a fare i conti con le delusioni e i propri limiti. Manu sta rischiando di rimanere un fenomeno in embrione, incapace di trasformarsi in campione. È la massima espressione degli sport della montagna, il massimo. Cioè, alpinismo comprende tutto. Poi bisogna avere entusiasmo e poi la fatica, non è vero che c'è tanta fatica. Quando hai voglia di fare le cose in un ambiente così bello, la fatica non esiste. Grazie. La voce squillante e arzilla che avete appena sentito è quella di Camillo Onesti, imprenditore lombardo classe 1926, piccolo e incessante moto perpetuo con un amore smisurato per la montagna e lo sci. Sarà lui, una volta passato dall'agonismo all'insegnamento, a caricarsi sulle spalle il destino e il futuro di Manuela Dicenta e a cercare di trasformarlo. Una specie di Deus ex machina, deciso a dare una svolta alla trama. Ma per sua fortuna non sarà solo. C'è ancora un tassello, una piccola sorpresa che sta per arrivare pronta a rimescolare le carte e a puntare per vincere tutto il piatto. Sta per cominciare una grande epoca per lo sci di fondo. Torniamo per un attimo indietro, all'inizio. Abbiamo attraversato la Carnia, fermandoci a Paluzza per assistere all'arrivo della piccola Dicenta. È ora di spostarsi a Ponte Bernardo, frazione del comune di Pietra Porzio, in provincia di Cuneo. Giusto una breve tappa a Vinadio per assistere alla nascita della seconda protagonista di oggi. È il 13 gennaio del 1969, quando viene alla luce Stefania Belmondo. Stefania Belmondo. Per Stefania in serbo c'è la stessa scenografia che ha fatto da sfondo a Manuela. La nascita in un piccolo paese di altura, il vento e il freddo che la circondano e lunghi tracciati scolpiti nella neve a indicare la direzione. Ci sono due genitori amorevoli e tre bambini e ci sono persino un paio di sci rossi, proprio come quelli della Dicenta, regalati dal padre a rendere il tutto ancora più legato da un filo invisibile. Ma avvicinandosi alcune differenze sono evidenti. A cominciare dal luogo, il Piemonte e la provincia di Cuneo, storici baluardi di tenacia abbinata all'umiltà e al basso profilo. Stefi è uno scrigno pieno di energia che trova nei boschi e nei sentieri che scorrono lungo il paese l'unico modo di sprigionarsi. È testona, ma non testarda. È bionda, non bruna, sotto un cumulo di capelli arruffati. E soprattutto è piccola. In possesso di un fisico sì asciutto, ma anche minuto, che le garantirà non solo il soprannome di Trapulin, ma anche la capacità di incantare e stupire il mondo. Nelle parole di papà Albino, impiegato all'Enel, c'è tutto il disarmante segreto di questa bambina. Stefania era una bambina vivace e allegra, alla quale piaceva divertirsi sulla neve. Tutto qui. Beh, non è proprio tutto qui. La Belmondo, al contrario della Dicenta, da buon piemontese, decide di partire dal basso. Nella prima vera gara, in occasione della festa della neve di Prato Lungo, quando è in terza elementare, scende in pista con gli sci che papà Albino le aveva fatto con le sue mani. Un esordio che peggio di così non poteva essere. Arriva infatti ultima. La gara è un susseguirsi di avversarie che le chiedono strada, con Stefi pronta a farsi da parte e a lasciar passare tutti. Non c'è spazio, però, per l'abbattimento e la delusione. Scatta invece un forte desiderio di rivincita. Trapulin abbraccia la fatica con piacere e comincia a gareggiare per lo sci club Venadio. La carriera giovanile della Belmondo diventa presto un allungo costante e irresistibile. Affronta le diverse tappe della sua crescita sia umana che sportiva in maniera spensierata, senza dare troppa importanza ai piazzamenti, ma non lesinando impegno e fatica. Nel 1982 entra a far parte della squadra regionale piemontese attraverso lo sci club di Festione. Stefania ha solo 13 anni e deve impegnarsi per non tralasciare gli studi. La sua giornata tipo prevede la scuola, il rientro dagli zii per fare i compiti e quindi la corriera per recarsi agli allenamenti a Festione. Durante i weekend ci sono le gare, sempre lontano da casa, con trasferte lunghe e ritorni nel cuore della notte. Ci sono difficoltà, c'è una timidezza di carattere che complica le cose, ma grazie a Dio ci sono anche i risultati a regolare la bilancia. La Belmondo è brava, davvero, e migliora a vista d'occhio. Mette in campo tutta la sua forza e la sua voglia di lottare e stupire e comincia a macinare i risultati. Al secondo anno da allieva arriva terza al campionato italiano vinto dalla Paruzzi. La prima vittoria nazionale è nel 1985 al Saette Sprint, il campionato aspiranti, proprio a Bergemolo di Festiona, sulle sue nevi. Si aprono le porte della nazionale giovanile e Stefi ci si infila con decisione. Nel 1988 e nel 1989 vince i titoli juniores della 5 e della 15 chilometri. A questo punto si schiudono le porte della nazionale maggiore e Stefi entra in punta di piedi, come sempre, portandosi dietro la sua timidezza e la sua inesauribile energia. E qui ad aspettarla c'è il suo destino sotto forma di rivale e di stimolo, di croce da portare e gioia da cantare. Due donne coraggiose stanno per ingaggiare un duello senza esclusione di colpi e pieno di lampi di classe. Destini Incrociati prosegue il suo percorso nella neve all'inseguimento di due donne piene di talento e voglia di vincere. Manuela Dicenta, fulgida promessa per ora mancata, e Stefania Belmondo, piccola botte dal vino pregiatissimo, stanno per incontrarsi per dare una svolta epocale allo sci di fondo. Come abbiamo anticipato, è Camillo Onesti a mettere insieme i pezzi del puzzle. Il milanese dal cuore d'oro, una volta diventato direttore agonistico della squadra femminile, riesce a fare da mediatore tra la Dicenta e la federazione e a riportare Manu in nazionale, andandosela letteralmente a prendere a Milano dove era finita. Nel frattempo si coccola alla Belmondo, portata alle Olimpiadi di Calgary del 1988 per fare esperienza e respirare il clima dei grandi eventi. Camillo conosce lo sci e sa che ha tra le mani due jolly. Sa anche che non sarà difficile gestirle, ma è pur vero che i benefici per il fondo sarebbero tanti. Durante gli anni Ottanta, infatti, lo sport è ancora invischiato nella guerra dei generi. In molte discipline le differenze tra gli atleti maschi e le atlete femmine è ancora evidente. Le donne si aggrappano a qualche figura di riferimento per raggiungere un trattamento quantomeno equo. Sentite Mabel Bocchi, cestista italiana, eletta miglior giocatrice del mondo nel 1974. Si lottava proprio per le cose più banali, erano rivendicazioni rispetto ai nostri colleghi maschi che ci apparivano, insomma, del tutto naturali. Noi non volevamo essere delle esose, nel senso che per esempio i ragazzi andavano in hotel 5 stelle, mentre noi, insomma, eravamo sicuramente collocate in situazioni meno lussuose. I ragazzi facevano sempre raduni brevi perché avevano la necessità di ritornare a casa spesso. Noi facevamo raduni di un mese e mezzo, non solo in giro per l'Italia, nei posti più strani, più astrusi, loro magari a Varese, Milano, cose di questo genere. Addirittura noi dovevamo spesso consegnare le chiavi della macchina, se andavamo in macchina proprio trattate come delle minus sapiens. Il compito, la fatica che dovranno affrontare le due fondiste è quindi doppia. Accanto ai risultati personali c'è il desiderio di dare dignità e valore a uno sport in cui non solo i riflettori, ma anche l'assistenza tecnica e medica sono appannaggio degli uomini. Ma la stoffa c'è. Manuela Dicenta e Stefania Belmondo hanno tutti i numeri per farcela. Le Olimpiadi di Calgary del 1988 sono la prima occasione per le due atlete di studiarsi e conoscersi. Come abbiamo detto, la Belmondo è lì per fare esperienza e respirare il clima cui si dovrà adattare in fretta, quello delle grandi gare. Per la Dicenta invece si tratta di un ritorno. Per lei la cosa importante è ritrovare la fiducia che l'aveva portata a essere considerata una futura campionessa. Manu è concentrata e vogliosa di tornare in cima. Si prepara bene, ma deve fare i conti con un'influenza contratta durante gli allenamenti in quota che le impediranno di esprimersi al meglio. Ma è evidente che sta tornando ai suoi livelli. Stefi ci mette cuore e anima, tornando a casa con un bagaglio di esperienza importante. Risultati confortanti e tanta fiducia per il futuro. Il trampolin ha capito che può vedersela con le migliori. La gara, il duello, può cominciare. Ai vostri posti. Pronti per la partenza? Via! Manu e Stefi ingaggiano subito il duello. Spinte dalla loro forza e dalla loro classe, crescono e cominciano a superare atlete su atlete, adagiandosi ai livelli più alti. Il tecnico Onesti gongola. Quando nel 1987 aveva predetto una medaglia mondiale e olimpica, tutti lo avevano guardato di sbieco. Ma la crescita delle due azzurre è evidente, non c'è dubbio. Le due arriveranno in cima. È solo una questione di tempo. Mentre la Dicenta e la Belmondo sudano e fanno scorrere gli sci sulle piste in mezzo alla neve e al freddo, cominciano a evidenziarsi le prime crepe. C'era da aspettarselo, da una parte. Anzi, per la verità, si è capito dal primo momento in cui si sono trovate a dover gareggiare insieme. Manu sembra aver raddoppiato l'aggressività e l'ambizione, convinta che la chance questa volta non le debba scappare. Il suo isolamento nel gruppo pare solo un lontano ricordo di quando, giovanissima, era approdata in nazionale. Adesso è lei la star. Quella isolata è la Belmondo, anche se più per un fattore di timidezza e di indole, che certamente non le impediscono di allenarsi e coltivare la certezza di poter rispondere colpo su colpo. Il destino tesse la sua tela e sfodera un piano pieno di botte e risposta, salite e discese, in cui le due atlete vengono imbrigliate, finendo per dipendere l'una dall'altra. Il primo acuto è della Dicenta, che raggiunge per la prima volta il podio in una gara di Coppa del Mondo il 13 gennaio del 1989. Non c'è nulla da scherzare, si tratta proprio del giorno del 20° compleanno della Belmondo. Stefi risponde da campionessa, qualche mese dopo a Salt Lake City. Primo podio e prima vittoria in Coppa del Mondo. La sfida è entrata nel vivo. Ora aguzziamo gli occhi per vedere se arriva, eccola la nostra Stefania Belmondo, coraggiosissima, attenzione alla sfida per la medaglia d'argento, la Diebendal sotto 46 e 2:40, la Belmondo è già al terzo posto. Ora vediamo se riuscirà a mantenere questa sua posizione per salire sul podio e regalarci la medaglia di bronzo, la prima medaglia, vi dicevo prima, della storia del fondismo. Ce la dovrebbe fare, ce la fa, è ormai a meno di 10 metri dal traguardo. Generosissima con questo passo, spinta, attenzione, 46-26, ce la fa, medaglia di bronzo, senza più esitare, per la Belmondo, splendida medaglia di bronzo conquistata. Stefania sceglie l'Italia per un'altra impresa. Siamo nel 1991 e per la prima volta i mondiali si svolgono a casa nostra, in Val di Fiemme. Trapulin arriva terza nella 15 km a tecnica classica e diventa la prima donna italiana ad avere conquistato il podio in una gara dei mondiali. Attenzione al suo tempo, Manuela Di Centa è a circa 15 metri dal traguardo ed ha un tempo che autorizza qualche legittima speranza. Eh sì, ormai è a pochissimi metri e potrebbe farcela a segnare il miglior tempo in questa graduatoria provvisoria, ma che rappresenta, e ce la farà di sicuro, un termine di indicazione molto importante. Miglior tempo per 3 secondi e 2 decimi per Manuela Di Centa. Come avete sentito, la risposta della Di Centa non si fa attendere. Pungolata dalla rivale, ottiene anche lei il podio, addirittura in due specialità, nella 5 km a tecnica classica e nella 30 km tecnica libera. La ciliegina sulla torta arriva con la staffetta. Trascinate dalle due fuoriclasse, l'Italia ottiene il secondo posto dietro le inarrivabili russe. È senza dubbio un risultato straordinario. Le imprese delle due azzurre cominciano a far breccia nel cuore degli appassionati e dei nuovi tifosi. L'Italia, che segue gli sport invernali, si divide tra la bella e coraggiosa Di Centa e la piccola e inesauribile Belmondo. I giornali e i media, dal canto loro, non si limitano a consegnare la cronaca delle gesta e dei risultati, ma come spesso accade, si gettano a capofitto nel dualismo, sfruttando la rivalità in tutti i suoi aspetti, compresi quelli meno nobili dei litigi, dei dispetti, delle frecciate. È pur vero che le due non si amano e che le implicazioni superano di gran lunga il loro volere nel bene e nel male. Il bene è rappresentato dalla ritrovata e per certi versi nuova dignità dello sci di fondo femminile. Prima oggetto misterioso alla perenne ricerca di un'identità, ora finalmente realtà tangibile, godibile. Le atlete hanno raggiunto lo stesso trattamento degli uomini. Possono dedicarsi allo sport circondate da uno staff e da una federazione che le protegge e le fa crescere. Accanto ai due mostri sacri non c'è il vuoto, ci sono la Vanzetta e la Paruzzi, è un movimento in salute. Il male sono gli strascichi inevitabili che due caratteri forti ma diversi si trascinano dietro. Frequenti cambi di allenatori, liti, incomprensioni e qualche gara buttata al vento. D'altra parte, non c'è verso di convincere il destino. Le due stelle brilleranno quasi sempre a corrente alternata. Sarà così anche alle Olimpiadi. Superare Stefania Belmondo è ancora l'ultimo anello e non vendiamo sempre la pelle dell'orso. Non ce la può fare, ti sento. No, questa volta no. 1:21, non ce la fai, all'ultima virata. Stefania Belmondo, campione olimpica della 30 km. La sicurezza viene fra un secondo ed ecco che in questo istante Stefania Belmondo ha conquistato il primo posto, la medaglia d'oro alle Olimpiadi nella 30 km, la gara più lunga, dura e massacrante della categoria femminile. In 6 km la Belmondo ha inflitto 14 secondi di ritardo al recupero della Jegorova. Al terzo posto la Vialde, 1:43, diamo un'occhiata a questo fantastico ordine d'arrivo che ci propone anche la Di Centa al quinto posto. È la Belmondo questa volta a sfoggiare il sorriso più ampio. Vince la medaglia d'oro nella 30 km, battendo le rivali russe Egorova e Vialbe, con la Di Centa sesta. È la prima vittoria olimpica per una donna italiana nello sci di fondo. Stefania arriva al traguardo stremata e tremante, ma è felice. Da un paio d'anni è in cima alle classifiche. Seconda in Coppa del Mondo e prima ai giochi a 5 cerchi, al suo ritorno a Pietraporzio in un tripudio di folla, prende in mano un megafono e con voce squillante sfoggia tutta la sua umiltà sabauda. Siete troppo gentili, non dovevate farmi questo perché non merito questo. La Di Centa mette in cascina un bronzo nella staffetta. Si tratta comunque del primo podio olimpico per lei, ma è evidente che è in cerca di rivincite. Le prossime Olimpiadi dovranno essere le sue a ogni costo. E così succede, seguendo la semplice logica dell'alternanza, la ricetta che il destino ha preparato per queste due ragazze dal primo giorno che si sono incontrate. I primi anni 90 hanno visto prevalere la Belmondo. È naturale che adesso tocchi alla Di Centa, che non se lo fa dire due volte. Vi tar en chanse. Manuela Vicenta ledet ved 1,7. Hun da ledet hun foran Jegorova Gavrilo. Hun ledet ved 7,1 foran Jegorova Gavrilo. Hun ledet ved 12 foran Jegorova Gavrilo. Og her går hun i mål og tar en ledelse foran Ordina, foran Villeneuve, Aoki og Manuela Vicenta fra Italia inn på 39,44,5. Neanche il commento in norvegese intacca un'impresa pazzesca. Manu sa di dover fare un miracolo per controbattere alla rivale e così fa. A Lillehammer in Norvegia, in occasione delle Olimpiadi del 1994, vince la bellezza di 5 medaglie in 5 gare. 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Un trionfo. La Vicenta è un marziano che danza sugli sci superando qualsiasi rivale. Lo stesso anno vince la Coppa del Mondo, il trofeo che la Belmondo ha solo sfiorato più volte. Incredibile. Come incredibile è la spiegazione che la stessa Manu dà a un giornalista straniero all'arrivo di una delle gare che l'ha vista vittoriosa. I feel like to fly today and I fly until the end of the course and it was fantastic. Il volo di Manu è il volo elegante di un falco. Si è gettata come un rapace sulla preda che il destino le ha messo in serbo. Per la Belmondo, due bronzi simili a briciole, si fa per dire, con un problema all'alluce valgo che la tormenta. Finita qui? Ma che? Ci sarà ancora modo per sfidarsi, scia ai piedi e occhi puntati verso il traguardo. Destini incrociati ancora in giro per il mondo a inseguire senza raggiungerle. Due atlete formidabili, due donne coraggiose e due splendide rivali. Manu Vicenta e Steffi Belmondo hanno da tempo legato il loro destino l'uno all'altro in uno strano gioco di alternanza e sfida per la gioia di migliaia di appassionati. La Vicenta cavalca senza paura l'onda dell'entusiasmo e dopo l'exploit delle Olimpiadi di Lillehammer vince la sua seconda Coppa del Mondo nel 1996. Sono anni in cui, secondo la logica che ha unito queste due atlete, la Belmondo fatica a seguire la scia della friulana senza per questo desistere. In mezzo i soliti battibecchi che continuano a riempire le pagine dei giornali, come accade durante i mondiali a Trondheim nel 1997, dove il quarto posto della staffetta diventa la scintilla per l'ennesimo screzio. Comincia la Vicenta. Ai mondiali la Belmondo ha sfasciato tutto. Non correrò più la staffetta. Al traguardo di Trondheim mi hanno lasciata sola come una cagna. Ci sono persone che ti girano le spalle, che vanno dove tira il vento come banderuole. Sono loro che non hanno cultura, umiltà e sensibilità. A cui risponde il giorno dopo la piccola Steffi. La Vicenta? Faccia la staffetta con la sua amica Egorova. Probabilmente in questo momento ha molta rabbia per i suoi risultati dei mondiali, ma forse è meglio che faccia la sua vita. Mi pare ovvio che ognuno ha la serenità che si è cercato. Adesso io le chiedo pubblicamente di lasciarmi in pace una volta per tutte. In queste risposte piccate c'è tutta la storia che lega le due campionesse. Due donne forti, piene di energia e senza paura di fronte alla fatica. Muscoli e nervi impegnati a pattinare sulla neve, a combattere il freddo, la paura. Intorno un nugolo di allenatori, dirigenti, giornalisti intenti a tamponare, proteggere e trafiggere senza pietà. Sono le differenze caratteriali a rimescolare tutto. Differenze che spesso creano un vortice in cui le due azzurre vengono risucchiate. La Vicenta concluderà la carriera alle Olimpiadi di Nagano nel 1998. La sua vita agonistica termina, guarda caso, con un bronzo nella tanto vituperata staffetta, in tandem con la sua rivale. Non è uno scherzo, è semplicemente un finale inevitabile. Manu si porta a casa un palmarès incredibile, un'Olimpiade vissuta da unica protagonista, due Coppe del Mondo e tante altre medaglie. La soddisfazione per aver contribuito al rilancio di una disciplina e la gioia per aver mantenuto, seppur con qualche difficoltà, le radiose promesse che avevano accompagnato il suo sbocciare. Qualche anno più avanti, durante la presentazione del suo libro Libera di vincere, Manu spiega così l'istinto che l'ha guidata attraverso i tracciati nella neve. Bisogna capire l'amore verso che cosa c'è dentro di noi e quando noi sentiamo un amore verso qualche cosa, che per me era lo sci, era la neve, era questa dimensione del movimento nel freddo, è quella cosa che noi dobbiamo fare e quindi dobbiamo seguirla. Per la Belmondo la parola fine arriva qualche anno dopo, giusto il tempo per stupire ancora. L'anno dopo, infatti, Steffi sbanca i mondiali in Austria, vincendo due medaglie d'oro e una d'argento. Nello stesso anno arriva prima a pari merito nella Coppa del Mondo, che però finisce tra le mani della norvegese Bente Skari, in virtù di un maggior numero di vittorie. una beffa che di certo non cancella i fantastici successi di Trampoline, che chiude in gloria e bellezza alle Olimpiadi di Salt Lake City del 2002, con un oro, un argento e un bronzo a imperitura memoria. Particolare e non trascurabile, anche lei, come Manu, decide di smettere dopo i giochi. Le motivazioni, così come i caratteri, sono diverse. Per Stefania smettere significa potersi dedicare finalmente alla famiglia, ai suoi due figli, Mattias e Lorenzo, alla vita semplice che ha sempre cercato di proteggere durante gli anni dell'agonismo, sostituendo le vittorie con altri tipi di traguardi. La Belmondo diventa allenatrice, viene eletta fondista italiana del secolo e viene scelta come ultima tedofora alle Olimpiadi di Torino 2006, nel suo Piemonte. Ma il vero motivo di orgoglio è il suo contributo nell'insegnare i valori dello sport a bambini e ragazzi, girando per le scuole a raccontare la sua storia. Come testimonia questa visita a una elementare di Torino. Spero di aver fatto capire loro che per raggiungere un risultato in qualunque campo bisogna comunque fare un po' di sacrifici, bisogna metterci la volontà, bisogna impegnarsi tanto. E loro a me hanno dato molto, perché comunque l'affetto, quando un bambino ti dice mi hai fatto passare una bella giornata, grazie, torna, oppure anche già solo i loro disegni, vedere quello che hanno espresso per mezzo del disegno è troppo bello. Com'era prevedibile, per Manu la scelta è diversa. Lei i riflettori ama sentirli sempre puntati. Ed è per questo che dopo il ritiro non si ferma e continua a macinare chilometri. Lo fa facendo quello che la rende più felice, o libera, secondo il titolo della sua autobiografia. E quindi, in ordine sparso, la discesa in campo in politica, la salita, questa sì davvero tosta, in cima all'Everest, prima donna ad aver raggiunto la vetta, e poi ruoli dirigenziali e la conduzione di un talk show televisivo. Manu è fatta così. E così è riuscita a tirare fuori il meglio di sé. Quella che rimane è la fotografia di una gara lunga una decina d'anni, in cui due anime che probabilmente non si sarebbero mai nemmeno salutate si sono dovute confrontare per forza e in qualche modo hanno fatto da traino l'una per l'altra, finendo per unirsi in un destino di reciproca dipendenza che ha sempre avuto il merito di non dare troppa importanza agli screzi e alle incomprensioni, dando luce alla grandezza di due atlete formidabili. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.